Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Baria oggi in redazione, Pietro Lacorte in regia e Andrea Zorzi qui vicino a me e a vostra disposizione. 800 24 0024 numero verde. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. Com'è andata la settimana? Bene, bene, bene. Bravo. Tranquilli in preparazione di questo viaggio, seconda parte di Tracce di Sport che parte la prossima settimana. Ieri un viaggio veloce in giornata a Reggio Calabria. Tanto per non lasciarsi mancare niente. No, no, è stato di Tracce di Sport. Quando parti? 24 di ottobre, partiamo da Modena e poi facciamo un giro attraverso l'Ostellio, le Tre Sime di Lavaredo, Gorizia e poi su Lombardia, Piemonte, Liguria e giù. Cosa vai a cercare stavolta? Ma dunque, continuiamo con i luoghi dello sport, ne abbiamo scelto uno per ogni regione, che ci permettono di raccontare un po' l'Italia. E quindi, non so, lo Stelvio è in assoluto il luogo del Giro d'Italia. Il santuario del ciclismo. Ho chiesto, ma qual è uno il posto? Dei santuari. Hanno detto, ma Gavia... No, no, Stelvio, non si parla più. Tra i cimi di Lavaredo, perché è un po' il grande luogo della scalata dell'alpinismo italiano. Poi non so, andiamo a Verona, al poligono di Tiro, dove si allenava Roberto Di Donna, si allena ancora per la verità, che ha vinto la medaglia d'oro. Nello stesso poligono, nel 1943, fucilarono Galeazzo Ciano. Ma dai. Esattamente. Con un video di quelli impressionanti, e questa è l'idea, che lo sport ci porta in dei luoghi che ci permettono di raccontarci un pezzo di storia. Dove volete, Andrea Zorzi? 800 24 0024, qual è il vostro luogo dello sport? Ve l'ho già chiesto molte volte e insomma, siete molto sensibili all'argomento, questo lo so. 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ho un sabato sportivo, ma in generale un weekend sportivo fitto come un bosco di un sacco di eventi. Vedo le immagini alla televisione del Giro di Lombardia, 10 chilometri alla conclusione, poi avremo anche un collegamento con Pier Augusto Staggi, così come ci collegheremo, ed è un altro degli argomenti di questi giorni, con i mondiali di scherma di Catania. Oggi le cose non sono andate affatto bene perché a metà pomeriggio abbiamo già finito con le azzurre della sciabola eliminate ai quarti dagli Stati Uniti. E anche gli azzurri della spada sono stati eliminati, dunque oggi non arrivano medaglie da Catania, ma poi ci colleghiamo con Dario Ricci. Fitto come un bosco perché già questa mattina ci sono state le prove della Formula 1, lì il campionato è già finito, però Hamilton ha strappato la pole position a Vettel, che sta tentando di chiudere la stagione con quest'altro record, cioè quello del maggior numero di pole in una sola stagione, attualmente detenuto da Mansell con 14 e lui ne ha 12. Comunque Hamilton, Vettel, poi Button, Webber e poi le due Ferrari, quinta e sesta, Massa e Alonso. Sarà più caldo invece il Gran Premio, questo è in Sud Corea, sarà più caldo in Australia il Gran Premio del Moto Mondiale, perché c'è Stoner che ha la possibilità di chiudere il discorso del Mondiale e partirà in pole position davanti a Lorenzo Simoncelli, solita via crucis per Valentino Rossi, solo quindicesimo. Poi io personalmente sto facendo il tifo per la Francia, i mondiali di rugby, Francia che ha raggiunto la finale questa mattina battendo 9-8 il Galles, e domani mattina ci sono gli All Blacks con tutta la pressione del caso che giocano contro l'Australia per raggiungere la Francia in finale. Poi c'è il calcio che sta preparando il derby di Roma, oggi le big di Champions League in campo, comincia l'Inter alle 18, senza Eto'o naturalmente, Adesso ne parlo anche con Andrea Zorzi. Buttiamo già gli argomenti della puntata. Buttiamo già giù i carichi da 90. Senza Eto'o naturalmente, ma anche senza Snyder che non ha recuperato in tempo, e senza Kivu che in settimana, come avete sentito, si è lamentato. E mi fanno fare il terzino sinistro, io posso farla 1-2-3 partite, ma adesso lo faccio da 4 stagioni e francamente mi sono un po' scocciato. Ho fatto centrale con Gasperini, poi me l'ha mandato via e quindi sono tornato un po' indietro. Risposta di Ranieri: non convocato per la trasferta di Catania, non so se per questo motivo o per altri. Comincia l'Inter, poi stasera c'è il Napoli con il Parma di Giovinco e il Milan contro il Palermo, una partita già importantissima. Mi fai chiudere una parentesi iniziata 3 o 4 settimane fa, sì, con Sabatini? Quale? Quella dei campioni in affitto? Quella roba lì. Eto'o e Bryant. Io ho letto in questi giorni che a quanto pare Sabatini ha scritto a Obama. Sì. Allora, guarda, adesso ieri con Palaspicchi una cosa molto divertente, vediamo se riusciamo a recuperare dalle cartelle di Palaspicchi, da tempo di sport, non so dove sia, questa lettera, che così te la faccio sentire, perché lettera Obama, no, ma la facciamo anche adesso Pietro Lacorte ce la cerca, la regaliamo di nuovo all'improvviso così ai nostri ascoltatori. Siamo partiti con mi compro il Brian. Colosseo. Lo faccio giocare a Bologna tutto l'anno. No, forse un mese. Aspetta, facciamo una amichevole. E Obama, per favore, dai, metti una buona parola. Sì, tu trick e track e giri col tenno una piaga. Eh? Ieri un ascoltatore ha scritto: pare che venga per un tiro libero nell'intervallo di una partita. La lettera, vuoi sentirla? Sì, volentieri. Guarda, no. Senti qua. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Egregio signor presidente, abbiamo un sogno. Quello di vedere Kobe Bryant giocare nella nostra squadra, la Virtus Pallacanestro Bologna. Città conosciuta in tutto il mondo come Basket City. Condividiamo con lei il desiderio che il lockout NBA finisca presto. Ma nel frattempo ci conceda l'opportunità di veder giocare, almeno per una partita, il grande Kobe Bryant con la maglia bianconera, in modo tale da farlo diventare parte della nostra storia. Claudio Sabatini. E la prossima mossa è incatenato in mezzo al palazzetto con tanto di sciopero della fame e magari della sete anche. Dai, povero presidente. Secondo me, io insomma appoggio Sabatini perché ha avuto un coraggio da leone, secondo me. Questa non era in programma, ma te l'ho fatta sentire. Vedi, il mio luogo di sport oggi è stato a Malcesine, skyrunning fino al Monte Baldo, 2000 metri di dislivello piegati, ma vivi Giulio da Modena, beato lui. Sarebbe piaciuto anche a me essere lì. Ok, pista Viareggio, ciao Jerry, scrive un altro ascoltatore. Vabbè, Bryant, abbiamo capito che sarà dura. Il numero 24. Eto, chi lo sa? Moratti ha detto, non sono niente, ero in America. Però, no, non se ne fa niente, al 90%. C'è quel 10% che è un po' inquietante. Non so se dirtela subito, ma per collegare Eto calcio e scherma Olimpiadi, tra le più belle risse che ho visto in vita mia nel villaggio olimpico, c'è quella sempre tra gli schermidori e i calciatori. Sì, Il concetto legato al fatto che molti calciatori dicono: ma sai, eravamo liberi, eravamo in vacanza, non sapevamo bene cosa fare e siamo venuti all'Olimpiade. Dicono una cosa del genere nel luogo nel quale gli altri atleti hanno dedicato la vita, anni di allenamento, sono lì che si giocano la vita. E questi dicono: no, c'avevo niente da fare, invece di andare a Riccione sono venuto qui. E questo è un po' il concetto che Eto magari l'ha fatto anche senza pensarci, ma l'idea è che siccome ho 2 mesi liberi, quasi quasi torno a Milano a giocare, insomma, si presta anche a una lettura. Ma non gratis, eh? Ah, non gratis. 2 soldini li vuole. Caro Andrea Zorzi, tu stai per partire per Tracce di Sport, io sarà meglio che faccio un giro dal dottore col raffreddore che mi ritrovo. Tra poco ci colleghiamo con Catania, ma dimmi sta storia di Eto, non viene gratis? No. Io ho sentito una cifra così, 6 milioni, ma perché ci sarebbe, come per Bryant, un premio assicurativo enorme da pagare. Poi i russi hanno detto: no, fate i bravi, l'abbiamo preso e l'abbiamo pagato. Lui si prepara per la stagione. Dunque, nuova. Ancora una volta, invece di entrare proprio nei dettagli, che sennò secondo me corrono il rischio di far diventare una questione quasi legale un aspetto più ampio, farei come anche tu in questa settimana, collegherei due eventi legati agli sportivi che non sembrano così vicini, e sono Eto che dice: torno a giocare durante le vacanze a Milano, e la Pellegrini che dice: se mi dovessero chiedere di portare la fiaccola, direi di no, perché il giorno dopo devo fare la gara. Ecco, è proprio lì ti volevo portare, perché secondo me questo è forse il tema più interessante della settimana, forse più di Eto. Perché così di prima chi ti ho detto, e te l'ho detto anche prima, poi ne è nata una discussione che non abbiamo ancora finito. Però possiamo continuare serenamente in pubblico, coinvolgendo anche gli ascoltatori, 800 24 00 24. E ti dicevo, così in linea di principio, Federica Pellegrini, che non è il mio personaggio sportivo preferito in assoluto, non ha tutti i torti, nel senso che forse se è andata giù dura, pesante, ha replicato ancora Petrucci in maniera non molto educata, però il concetto di base è: volete che vinca una medaglia o volete che porti la bandiera? Perché se devo gareggiare il giorno dopo, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi è qualcosa di fisicamente faticoso, allora, tu lo sai. Due commenti. Uno, l'ha già fatto la Trillini, che ha fatto il portabandiera, il giorno dopo ha vinto la medaglia d'oro, dicendo che proprio quell'emozione gli aveva dato ancora più entusiasmo. È vero che tra la scherma e il nuoto c'è un aspetto legato anche alla prestazione fisica che è un po' diverso. Ed è verissimo, come dicevi te, quindi è legittima la questione che pone la Pellegrini, dicendo: la cerimonia è bellissima, un lungo impegno potrebbe creare delle difficoltà. È un tema che va toccato con molta cautela, ma ricordiamoci che la fiaccola olimpica e la cerimonia è per definizione il simbolo degli sportivi, di tutti. Dopodiché, come spesso accade, quando sei sul luogo ti ritrovi a vivere un'emozione che magari è diversa da quanto ti aspettavi, ma non si possono fare dichiarazioni che vanno così vicine a un simbolo universale. Bisogna pensarci un attimo prima. Sì. Per esempio, vengo dire, io, poi io e poi eventualmente viene tutto il resto. Per esempio dire, guarda, mi dispiacerebbe tanto, ci terrei moltissimo a farlo, ma credo, ho il timore che questa cosa possa. Ho il timore, vorrei tanto farlo. Invece la lettura che ne ho fatto io è... No, però in realtà, insomma, è chiaro che il senso forte è non voglio portare la bandiera perché ho la gara. Poi io ho sentito l'intera dichiarazione ed è partita con un preambolo dicendo... sono molto patriottica, mi piacerebbe tanto, però ho la gara il giorno dopo e quindi dovrei dire di no, perché comprometterei comunque 4 anni di preparazione. Esatto. E la gara più importante. Andiamo a Catania, continuiamo a parlarne con gli ascoltatori. 800240024 a Catania, dove c'è Dario Ricci per questo finale dei mondiali di scherma. Ciao Dario. Ciao a tutti, Carlo da Catania. Beh, sono in una posizione davvero particolare, perché praticamente, Carlo, sì, lo stesso sentire in sottofondo, sono nella panchina azzurra della squadra di spada che sta in pedana per il 5° e 6° posto contro la Germania. Ah, sei in panchina, sei cambiato, sei vestito da scherma. Sono in panchina, non vado a disturbare Matteo Tagliarioli perché ha la spada in mano e, visto che la sa usare con una certa maestria, non è il caso, ma al nostro microfono, e lo ringraziamo perché fa veramente uno strappo alla regola, c'è Alfredo Rota, grande bandiera della nostra spada. Per il momento in panchina, ma chiaramente dovesse esserci l'esigenza, diciamo che il collegamento salterebbe per motivi, necessità superiori, ma intanto Alfredo, insomma, oggi prima giornata senza medaglie qui a Catania, c'è voluto il nubifragio che ha sconvolto un po' la città, il terremoto è successo in pedana, perché è una notizia, insomma, un'Italia senza medaglie oggi. Per gli spadisti la brutta sconfitta con la Svizzera, cosa è successo? Sì, in effetti è vero, siamo un po' abituati un po' troppo bene a questo inizio mondiale, ci abbiamo pensato noi, però dispiace, la spada è un'arma molto particolare, che sono degli equilibri con le altre nazioni fortissime, e perciò vincere si può vincere, però non con una facilità estrema come può sembrare nelle altre armi. Ecco, c'è un Piccio che è stato il grande protagonista della gara individuale, ha ben tirato anche nella gara a squadre, c'è un Matteo Tagliariol che invece ha sofferto in modo particolare in questo mondiale, anche contro quella Svizzera del suo ex maestro Mazzoni, insomma un triangolo del Bermuda in cui adesso non ci addentriamo, ma insomma è un campione che va recuperato. Alla luce della tua esperienza, quale può essere il percorso con i tempi strettissimi che impone Londra ormai alle porte? No, è proprio il discorso che ho fatto prima a squadre, vale anche per il singolo, cioè una nostra specialità è veramente difficilissima. Calcola che penso nella storia nessuno abbia ripetuto di vincere un mondiale 2 volte di fila, nel fioretto, nella sciabola invece sono cose che capitano, perché se sei veramente forte sei molto più forte degli altri avversari, e poi può succedere. Noi invece è uno sport che ci giochiamo tutto, avendo il colpo doppio, tutti i bersagli sono validi, perciò c'è molta differenza, perciò ripetersi è veramente difficile. Senti, ti stuzzico un po' sul tema che sentivo già animava il dibattito in studio, quello del portabandiera olimpico, tutto il caos sollevato dalla Pellegrini, adesso sembra in pole position la Vezzali, beh, staremo a vedere. Tu come la vedi? Insomma, tu queste 8 ore in piedi te le faresti, non te le faresti? Oppure, insomma, da atleta di vertice, così come Andrea Zorzi in studio, è un impegno così gravoso da addirittura arrivare a dire no? Ah, io sono amico di Antonio Rossi e abbiamo parlato, quando ho portato la bandiera l'ho visto veramente felice, proprio aveva le lacrime agli occhi, e lo capisco benissimo, perché da italiano è il massimo che uno può sognare, e portare la bandiera vuol dire che hai fatto la storia dello sport, non ti scelgono così per caso, e chiaramente se la giocano la Vezzali e la Pellegrini per portare la bandiera. So che Pellegrini c'ha la gara sul giorno dopo, è anche capibile, però senz'altro se non avesse avuto la gara il giorno dopo l'avrei portata senz'altro molto volentieri. Ecco qua, questo è il parere praticamente dalla pedana di Catania. Alfredo, adesso non so se lo chiameranno al volo dopo l'intervista a tirare una stoccata. Non so. Benissimo. Se c'è qualche altra curiosità da studio. Guarda, non so, Andrea Zorzi. La curiosità, per l'amor di Dio, non fate entrare Dario in pedana, perché si fa male, ecco, lui. Ecco, Alfredo, Andrea ci dice, il consiglio dice non fate entrare me in pedana perché altrimenti neanche il quinto posto becchiamo, e sicuramente vado per il CTO di Catania, avrebbe parecchio da lavorare per rimettermi in piedi. Direi che il pericolo è scongiurato, Andrea, eh? Pericolo scongiurato. Io ringrazio Dario Ricci, l'ho striviato laggiù a Catania con Alfredo Rota, mentre Oliver Zaug, corridore che francamente non conoscevo fino ad oggi, ha vinto la classica delle foglie morte, cioè il Giro di Lombardia. Quindi un carneade a Lecco a vincere il Giro di Lombardia. Mentre parlava il sipario, la stagione del ciclismo. Sipario. Oliver Zaug del team Leopard Trek davanti a Daniele Martin, terzo Oliver nel gruppetto regolato in volata da Martin, Oliver quarto Ivan Basso, ed è francamente il primo nome che conosco da ignorante, vero, perché insomma... Poi ci facciamo raccontare tutto da Pier Augusto Stagi. Allora, hai sentito Alfredo Rota sulla questione. Alfredo Rota, spadista, schermitore olimpico, che insomma ha vinto tanto, che conosciamo bene, che è uno di quelli che ci portano metallo prezioso alle Olimpiadi. Abbiamo detto prima, almeno io lo continuo a pensare, che sia un argomento quello della fiaccola, della bandiera, da portare con, da toccare con molta attenzione. Sicuramente una grande soddisfazione, e significa che ha fatto la storia dello sport italiano, su questo non c'è dubbio. Di portabandiera ce ne sono pochini, uno ogni 4 anni. Ricordate anche che nei tempi passati ci furono grandi polemiche con Mennea nell'88 a Seul, quindi è veramente un tema che crea anche un po' di pressione. A me sembrava poco attento, poco delicato il modo in cui la Pellegrini ha toccato un tema così importante. Dopodiché esiste per davvero la necessità di pensare se per davvero quelle, forse non sono 8 ore in piedi, un po' di meno, se quelle ore in piedi possano essere un rischio per la prestazione. Ma ancora una volta bisogna ricordarsi che noi siamo degli atleti, in mezzo ad altri atleti, in mezzo a un gruppo del villaggio olimpico, e non dobbiamo pensare solo a noi esclusivamente, anche se comunque ho preso in considerazione. Però la tua esperienza personale racconta, e me lo ricordavi prima ma già lo sapevo, di una cerimonia olimpica Velasco non me l'ha fatta fare. Perché? Io sono arrivato ad Atlanta con un problema al polpaccio, non ero perfettamente in forma, mi disse: guarda, per evitare qualunque tipo di problema non stai in piedi, non vai a camminare, stai in albergo, anzi al villaggio olimpico, e la guardi. Quindi da questo punto di vista, da un punto di vista fisico, da un punto di vista prestazione sportiva, non potrebbe non aver torto. Il problema della prestazione fisica legata allo stare in piedi è comunque da porre, certo, e da certo, considerare. Certo. Quale sia il modo migliore per farlo, secondo me non è quello che la Pellegrini ha usato. Alex da Taormina, se mi portano a Londra la tengo io la bandiera, così poi Federica fa tirar su quella con l'inno nazionale. Sarebbero in tanti che si propongono. Franco da Pescara, Samuele da Treviso sono in linea. Franco, buongiorno, buonasera. Buongiorno signor Carlo, ci risentiamo. Io ogni tanto mi provoco un po' sul rugby. Sì. E volevo commentare con voi, se possibile, la bella partita, o più che altro la prestazione di grande orgoglio del Galles, che ha giocato per 70 minuti un uomo in meno, una squadra giovanissima che secondo me dominerà i prossimi 6 nazioni per 3 o 4 edizioni. Galles non fa altro che aumentare i miei rimpianti, il mio cruccio. Loro possono attraversare 1, 2, 3 stagioni di carestia, ma poi hanno comunque il serbatoio che serve per arrivare a giocarsi una semifinale mondiale con un uomo in meno e rischiare di battere la Francia. Sì, però è anche vero che il rapporto di tesserati, pur avendo una popolazione molto minore alla nostra, hanno comunque più tesserati di noi. Noi infatti ce la giochiamo con la Scozia perché abbiamo superato la Scozia come numero di tesserati. Però quello che volevo sottolineare, se mi consente, prego, è il fatto che l'assoluta compostezza con cui il capitano del Galles ha subito il cartellino rosso, peraltro sacrosanto, l'assoluta serenità con cui Alain Roland lo ha comminato, l'assoluto coraggio con cui il Galles ha giocato al meglio 14 contro 15, e sappiamo noi appassionati di rugby come nel rugby non si possa vincere una partita per caso, e ci abbia provato e ci sia arrivata vicino, perché se non avesse fallito Steven Jones, la trasformazione della meta, e Half Penny non avesse mancato veramente di 15 centimetri la realizzazione di un calcio piazzato da metà campo, avrebbero vinto i Dragoni e forse meritatamente. Sì, sì. A questo punto io dico go Wallabies, perché metà della mia famiglia ha cittadinanza australiana e sono convinto che domani l'Australia batte i Blacks e poi asfalterà sicuramente gli amati cugini francesi. Sì, adesso ognuno tiene le sue bandiere, sono tutte straniere le sue bandiere, però insomma la mia è quella transalpina perché ho questa simpatia. Però insomma lei per questioni anche di famiglia, però ha fatto bene innanzitutto la ringrazio, ci ha fatto un rapido riassunto molto preciso e dettagliato della partita di questa mattina, per chi non l'avesse vista. Hai visto? Troviamo anche bravi inviati tra gli ascoltatori. Per quanto riguarda poi invece gli All Blacks, è interessante che siano in assoluto, ma la squadra non solo di rugby, ma forse la squadra, il team più conosciuto a livello mondiale, che ha il maggior impatto anche per quanto riguarda l'immagine, che però non vincono il mondiale dalla prima edizione, che sono in casa, che secondo me guardano all'incontro con i vicini cugini australiani con molta preoccupazione, e sono quelli che fanno un gioco diverso, più divertente. Io capisco veramente poco di rugby, però mi pare che la velocità, l'abilità dei neozelandesi sia comunque notevolissima. E poi per il resto continuo a pensare per davvero che il rugby sia uno sport che va apprezzato per la sua compostezza. Ancora anch'io ricevo un po' queste apprezzatine, però non è il rugby l'unico sport che in qualche modo ha una risposta corretta dal punto di vista comportamentale anche di fronte a delle espulsioni. Ci sono altri sport che comunque, ciò nonostante, si comportano in modo corretto. Sì, non è che sono bravi solo loro, ce ne loro sono, lo sono. Loro lo sono, ma ce ne sono anche degli altri. Quindi questa bandiera torna sempre lì, va un po' condivisa. Alberto Tomba, Alta Badia, La Villa, Gran Risa, il più bel gigante di sempre, 4 vittorie in Coppa del Mondo, 86, 90, 91, 94, mi pare, scrive l'ascoltatore Marcello da Bologna, un gran luogo di sport, questo te lo regalo. Dunque torniamo, caro Andrea Zorzi, con Pieragusto Stagi dal Giro di Lombardia, che insomma toglie un po' della nostra ignoranza spiegandoci che è questo svizzero Zaug che oggi ha vinto la classica delle foglie morte. Ha vinto un buon corridore, un buon faticatore, però un corridore di seconda fascia. Non si può certamente dire che ha vinto un campione, un atleta che nel prossimo e immediato futuro potrà regalarci delle grandi soddisfazioni. Oggi ha colto la sua prima vittoria da professionista e ha vinto una grandissima corsa con pieno merito, però resta appunto un po' l'amaro in bocca, perché quando le grandi manifestazioni vanno in mano, vanno nel carniere di un atleta che non è di prima fascia, lascia sempre un pochino insoddisfatti. Un carneade, se ce n'è uno, insomma. Eh sì, lui è un corridore del team Leopard, un gregario di Fabian Cancellara, dei fratelli Schleck, un atleta di esperienza, capace di grande lavoro all'interno del gruppo. Oggi ha colto il momento, probabilmente è stato sottovalutato dai più attesi corridori del gruppo, si sono molto agitati, abbiamo visto l'atteggiamento assolutamente diverso, quando all'attacco c'era Vincenzo Nibali, dietro c'era il Team Sky che ha lavorato come un ossesso per andarlo a riprendere, e poi è partito in contropiede Oliver Zaug e sono rimasti lì a guardarsi come se fosse partito un signor nessuno, probabilmente così era, però è stato bravo a cogliere il momento, l'attimo, e ha messo tutti nel sacco. Gol partita in contropiede. Il ciclismo e lo sport è fatto anche di questi gesti, di queste azioni. È divertente anche per quello, no? Sapessi sempre chi vince, non lo guarderesti più. Pieragusto, ci sentiamo domani per la presentazione del Giro d'Italia. Oggi dalle strade e domani dalle sale in cui verrà presentato ufficialmente il Giro d'Italia. Se non sbaglio, per la prima volta di domenica, non ricordo altre occasioni in cui il Giro è stato presentato di domenica. Ringrazio Pieragusto Stagi, quindi hai capito? Classe operaia in paradiso, come si dice sempre in questi casi. Aspettiamo un altro film. Te la racconto una velocissima. Dimmela. Poi Olimpiadi, Luca e Mario che sono in linea. Olimpiadi di Atene. Io ero a Roma perché stavo facendo un viaggio ed ero alla sede della redazione sportiva di Repubblica. Sì. Aspettavamo la finale dei 100 metri piani con Powell, che era Maurice Green, Powell, tutti quanti questi. Era tardissimo la sera, il giornale andava chiuso, io ero lì solo a guardare. A un certo punto ho riguardato, allora, la gara l'ha vinta Gatlin. Sì, Justin Gatlin. Si è sentito. ma chi è questo? Ma chi è questo? A riscrivere il pezzo velocemente, inventarsi qualcosa, perché abbiamo preparato ovviamente dei pezzi, se vince questo vince quell'altro, ma chi è questo? Beh, però non avevamo visto le semifinali, io sì, c'erano Gatlin e Crawford che avevano scherzato tutti gli altri, e allora anch'io mi sono detto chi è Gatlin, ma l'ho studiato prima della finale, quindi quando ha vinto non ero poi così impreparato, l'ho raccontata per questi microfoni. No, tra l'altro la finale è pazzesca, con i primi, mi sembra che il quinto Collins avesse corso sui 10 netti, 10.01, forse i primi quattro sotto i 10 secondi, insomma. Stessa serata. Poi però sono capito un po' di cose su Justin Gatlin. Stessa serata, Yuri Checchi vince a sorpresa il bronzo, sì, con pagine già disegnate, quindi Yuri, che bravissimo perché era andato in finale, non si immaginava potesse portare a casa una medaglia. Questo fa un risultato straordinario, a quell'età vince il bronzo, dice no, sposta le pagine, rifai tutto con un'agitazione. Ho assistito a una serata redazionale fantastica. È il bello del nostro mestiere. Anche a proposito del nostro mestiere, prima di Luca, la Pellegrini, scrive Stefano, non avrebbe mai toccato l'argomento, un giornalista ha creato il caso con una domanda scema ed un titolo ad effetto. Semplice? No, non mi sembra così semplice, Stefano, perché la domanda non mi sembra scema. Non facciamo come Raiola che è tornato e l'altro giorno ha detto tutta colpa ai giornalisti, Ibrahimovic non ha detto queste cose, però, dite stronzate. Alla domanda Raiola si risponde, ne sarei onoratissima. Sì. È già era finita. E eventualmente, quando Petrucci dice che non è una via crucis, invece di rispondere e dire sì, è stupido che non capisce, coglie l'occasione e dice no, in realtà volevo dire che ero preoccupata, ci tengo molto alla mia gara e quindi mi piacerebbe, ma non so se potrò portare... C'erano un po' di possibili intermediazioni. Sì, io dico che tu sei Andrea Zorzi, hai l'età che hai, lei è Federica Pellegrini e di anni ne ha molti meno. Quando ero più giovane anche io dicevo un sacco di cose diverse da adesso. Immagino non così, ma comunque. Luca, buonasera. Buonasera, dottor Garanzini. Non sono Andrea Garanzini, Zorzi, sono Carlo Genta, piacere lo stesso, dica. I radioascoltatori, senta, desidero solo dire quattro cose messe in fila, di cui la prima è la più importante. Se mi posso permettere di dire la mia... Io sarei onorato se il nostro portapantiera fosse Josefa Idem, con tutto rispetto per Pellegrini ed eventualmente anche Vezzali. Sì. Ma io penso che a Josefa sia dovuto una cosa di questo tipo, perché penso che veramente abbia onorato lo sport italiano. Beh, può in essere, un modo difficilmente può essere un'idea, anche perché andrebbe a rappresentare un po' di cose. Poi sentiamo anche Zorro, poi le altre veloci, Luca. Le altre veloci sono riguardo Eto'o, io gli direi grazie, siamo molto lusingati, hai fatto la tua scelta, la rispettiamo. Ciao. Punto. Sì. La terza cosa, sono d'accordo con lei relativamente al coraggio del presidente della Virtus per Kobe Bryant, perché sarebbe veramente una cosa che darebbe nuovo slancio al nostro basket. È una cosa che sì, ma poi è una cosa che nessuno avrebbe tentato. L'ultima. Dica. Vado fuori tema, però guardi, è solo non perché me tema la tengo dentro da domenica scorsa. Dica. Formula 1. Sì. Rapidissimamente. Io guardi, è dal 2009, dalla fine del 2009 che non mi diverto più, sa perché? Perché non c'è più BMW, perché non c'è più Toyota. Se fossi Bernie Eccleston cercherei di ricoinvolgere le grandi case automobilistiche. Solo che le grandi case automobilistiche dicono a Bernie Eccleston, per partecipare a quella cosa dobbiamo spendere una montagna di quattrini, in questo momento abbiamo altri problemi. Se sono uscite una ragione ci sarà, e comunque la Formula 1 sta vivendo credo il periodo di appeal più basso della sua storia. Quanto al resto, non so se Andrea vuole aggiungere qualcosa. No, su Josefa sono d'accordo che sia una candidata validissima, però Vezzali è un'altra stracandidata, visti anche i risultati di questi giorni. No, per il resto magari, se proprio Eto'o vuole restare in forma e vuole allenarsi così dando una mano all'Inter, potrebbe lo ospitano volentieri. Bisogna vedere quanto vuole. Non è contrario. Se vuole allenarsi in un posto più caldo di Mosca, anzi, e vuole venire qui ad allenarsi, è benvenuto. Bisogna vedere quanto vuole. Niente di gratis, eh? Arnaldo, provincia di Milano, poi traffico. Arnaldo, dica. Sì, buonasera. Alcune cose che volevo dire sono già state dette, non proprio uguali. Io sostanzialmente mi sembra che sia stata una montagna di una cosa sì, importante. Ma su cosa? Sulla Pellegrini? Do ragione alla Pellegrini, sì, perché i 400 metri è uno delle gare più difficili e pesanti di tutti gli sport. Diciamo che un 100 metri per 4. Sì, sì, sì, no, ma su questo credo che sia d'accordo anche Andrea Zorzi, cioè nel senso che uno sforzo fisico di quel tipo avrebbe messo in pericolo il risultato finale. Su questo penso si possa essere tutti d'accordo, anche Andrea. Abbiamo detto non che esiste che... la questione, va esiste valutata, ma non credo abbia senso dire a quanti sono 6 mesi, 7 mesi di distanza che non porterei la bandiera. Avrei risposto in modo molto più diplomatico e poi eventualmente più avanti, se fosse accaduto, ne avrebbero parlato con chi di dovere. Pala Maggiore di Caserta è un luogo dello sport, sì, sì. Poi ce n'è un altro, Pala Vera di Torino, luogo di un delitto, la RAI ha trasmesso al posto della finale di hockey olimpica quelli che il calcio, scrive Davide da Venezia. 80024 mi aspettavo un delitto vero anch'io, in realtà anche questo è un delitto però sportivo mediatico, facciamo così. Mario da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Senti, io volevo fare un paio di considerazioni. La prima è sulla Pellegrini. Io credo che nelle sue dichiarazioni abbia influito non poco la giovane età. E poi, insomma, mi verrebbe da dire, senza voler fare il filosofo, che insomma la Pellegrini è figlia della società in cui viviamo adesso, dove comunque l'individualismo viene prima di tutto il resto, anche di valori molto importanti come può essere quello di fare da portabandiera. Però, come dopo l'esempio di Maradona, evidentemente insomma è proprio vero che dietro a un grande atleta non sempre ci sono delle grandi persone. Spero che col tempo insomma possa cambiare idea. Un'ultima considerazione. Ma perché fa riferimento a Maradona? Cioè... Ma insomma, nel senso, Maradona sappiamo tutti è stato un grandissimo atleta, ma insomma penso che come uomo perlomeno sia abbastanza discutibile. È stato cattivo con... Sì, è stato discutibile, è stato cattivo con se stesso, si è fatto del male, si è un po' buttato via, poi da lì a dire come uomo è discutibile, non lo so, come esempio no. Certamente è discutibile, sì, ma sono discutibili esempio. Tutti gli esempi, cioè è sbagliato prendere dei parametri. Andrea Zorzi può essere un esempio, ma è uno. Tu vuoi fare l'esempio? No, ero deciso. No, però trovo anche corretto la posizione di Mario che dice effettivamente, a parte che la Pellegrini è veramente giovane, quindi magari avrà modo anche di imparare un pochettino. Poi è vero che questo relativismo, non nel senso prettamente religioso, ma il relativismo in cui sembra che non ci siano più dei riferimenti, può essere molto pericoloso. Dopodiché non è che la posizione contraria è decidiamo se quello ha fatto bene o se ha fatto male, ma qualche area, qualche valore occorre comunque tenerlo presente. Sì, sì. Sì, sì, questo secondo me è la vera grande sfida a cui siamo davanti. Allora Andrea, io ricordo una volta che sei stato a Roma i giorni prima del derby, sei tornato leggermente scioccato. Sì, ogni volta che vado a Roma, tra l'altro vado volentieri perché le radio romane sono uno spettacolo. E allora ti faccio parlare con Luigi Ferraiolo per l'importante Corriere dello Sport del nostro giornalismo. Ciao Luigi. Sì, ciao. Ma guarda, io sono più scioccato di voi in questo momento perché a Roma... Forse sapete, sta succedendo un po' di tutto. Sappiamo bene. Sono degli incidenti gravissimi. Io sappiamo sono Erione Monti, che è praticamente circondato da questa guerriglia. Quindi, altro che derby. Comunque, parliamo di derby. Ma dimmi cosa hai visto in giro. Noi lo sentiamo, abbiamo fatto prima anche collegamenti con Alessandra Schepisi nel giornale radio e l'abbiamo fatto in due tronconi perché doveva scappare. Sì, ma infatti, più che sentire, cioè, intanto danni in alcune vie del centro del Rione Monti, ora purtroppo c'è una guerriglia molto pesante proprio a Piazza San Giovanni dove la polizia si confronta con questi 500 diciamo che con i caschi tutti in nero, i black block che voglio dire hanno comunque ottenuto il risultato di far saltare una manifestazione che poi fondamentalmente era pacifica perché insomma certo. I nostri figli, i nostri certo. Nipoti che vanno in piazza, che vanno a protestare non sono quelli là, grazie a Dio, ma purtroppo certo. Sai, la violenza poi certo. Manda tutto all'aria. Certo, tanto che Draghi aveva detto hanno ragione però che non degeneri, è degenerata come facilmente. Sì, sono arrivati, sembra che ci sono delle testimonianze, anche gente che ha cercato di cacciarli è stata presa insomma, a botte, quindi è chiaro che è un'amministrazione che è nata con certe premesse e purtroppo sta finendo malissimo. Certo, diventa difficile parlare di derby. Io ti capisco, capisco. Speriamo insomma che si giochi a pallone domani e basta, questo sarebbe già un grande risultato. Perché hai dei dubbi? No, no, speriamo, dico, sai, i derby sono sempre così, un po' elettrici, diciamo. C'è stata questa relazione molto lunga perché la sosta del campionato ha prolungato, diciamo, la vigilia, se così possiamo dire. Però fondamentalmente ho visto grande compostezza da parte delle due squadre, delle due società, ed è un derby che trova le due squadre romane in una fase un po' delicata, perché la Roma, come voi sapete meglio di me, è in una fase di crescita, ma ancora non di, no, di assestamento. Bisogna vedere fin dove migliora, quanto migliora, certo, dove può arrivare. E la Lazio, che tutti pensavano fosse più pronta, perché meno male si è inserito un paio di giocatori importanti, gli attaccanti soprattutto, ma era una squadra collaudata, stesso allenatore, più o meno stesso stessa intagliatura, ha avuto qualche cedimento e quindi è un po' in ritardo, diciamo, su quello che pensava di poter fare. E l'ultimo turno di campionato li ha un po' rilanciati, la Lazio ha vinto a Firenze, la Roma finalmente ha fatto vedere un po' di calcio bello, e oltre a vincere, e adesso il derby ci deve dare una conferma, comunque ci porrà altri dubbi, ecco, sotto questo aspetto è un derby importante, perché le due romane sono sotto esame al momento, forse è arrivato troppo presto questo derby, ma insomma è arrivato. Sì, è arrivato troppo presto, anche in modo interessante, cioè sarà una partita interessante, credo. Andrea, tu... Io rimango sempre molto colpito dall'intensità con la quale i tifosi vivono questa partecipazione. Le radio sono per esempio uno specchio, anche in senso negativo, di questa partecipazione esagerata. Poi ci sono molti temi che diventano gioco forza così spinti per così tanti giorni che alla fine se ne perde anche la ragione per cui si sta discutendo. E comunque il caso Totti, di cui si è parlato sempre troppo, a me Roma colpisce sempre moltissimo, colpisce in alcuni casi, perché anche dal punto di vista proprio come è organizzato, cioè questo suo contratto per i prossimi 5 anni, credo, come dirigente, che poi è l'eredità della vecchia società, sì. E anche questo evidentemente... E però adesso pigli i soldi anche di Benedetto, no Luigi? Sembra di sì, sembra che, beh, insomma, sono anche un po' i soldi che hanno messo loro. Comunque prende i soldi, sia uno stipendio come presidente. Ma sai, io, secondo me c'è forse poco stile in questa decisione, oltre che un po' di sostanza, è ovvio. Ma questi, sai, stanno organizzando la Roma con una mentalità, con dei criteri molto molto lontani, non dico migliori o peggiori, ecco, ma molto lontani e diversi dai nostri. E credo che ci sia una difficoltà proprio da parte più che dei tifosi che dell'ambiente, proprio di noi, della comunicazione, a capire, no? Quante cose stanno cambiando tutte insieme, e magari speriamo che per la Roma che cambino nel modo migliore. Certo, insomma. Certo. Non dimentichiamo pure che la Roma viene da lunghe stagioni, come dire, di stagno completo, perché insomma non c'erano i soldi, c'erano difficoltà, quindi è un impatto tremendo, perché è cambiato tutto, è cambiato la società, l'allenatore, la squadra quasi totalmente. E poi dici bene tu la mentalità poi, che comunque i nuovi proprietari hanno gioco forza portato. Luigi, io ti ringrazio davvero, grazie. Come sempre, grazie Luigi Ferraiolo, e grazie anche a te Andrea, grazie mille, e quindi come sempre sabato, un piacere. Sabato ci sono, perché parto lunedì prossimo. Ci salutiamo. Ci salutiamo, ti racconto un po' di altri luoghi dello sport. Se avete voglia di mandarne, attenzione però, luoghi, non persone, non atleti, un luogo che vi racconta qualcosa attraverso l'aver ospitato un evento sportivo. Avete una settimana di tempo, amici miei, preparatevi, luoghi. E vi aspettiamo qui sabato prossimo io e Andrea Zorzi. Esatto. Io invece domani in solitudine qui dalle 16.30 alle 19 povero, a parlarvi da solo di sport, e dalle 20.30 alle 21 di basket. Grazie a Pietro Lacorte in regia e ad Alessandro Balia in redazione. Ci sentiamo domani alle 4.30.